Va ora in onda Lucciole nelle tenebre, da un'idea del presidio universitario Libera Bologna. Alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. Crudelia demon, farebbe paura persino un leon. Oh, assorbe dell'amore in apprensione. Crudelia, crudelia, è più letale lei di uno scorpione. Crudelia, crudelia demon. Bentornati a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre, io sono Benedetta e qui con me c'è Tania. Ciao a tutti. Allora, di cosa parliamo oggi? Di cosa parliamo oggi? Dimmi. Allora, parleremo di Zoomafia. Zoomafia è questa parte. Adesso, ora di pranzo, dobbiamo parlare di Zoomafia, sei sicura? Sì, che rimane un po' in stomaco. Rimane un po' così, sì, mi sa di sì. Però... ci siamo preparate su no, quello. No, scherzavamo, staccate la radio, c'è Benedetta Parodi sulla 7, che fa no. Gli ottimi minuti, il salvascena, non so se la segui. No, no, non tanto. Invece abbiamo una Benedetta Bisa, noi. Che sono io. Esattamente. Che non so cucinare. Cioè, però sa tutto così di Zoomafia. Sì, sì. Vabbè, Zoomafia chiaramente dà l'idea che si parli di animali. Ti ami animali? Ha degli animali? C'ho degli animali, li ho tutti. Tipo? Canarini, pesci tropicali, un cane bellissimo, bel dolcissimo. Quello è un... No, no, no, nel senso, mi sembra un animale un pochino così, più di compagnia rispetto a un canarino. E perché non conosci i gatti? Oh, il gatto Dio. E la gatta sono un sacco di compagnia, beh, puoi capire. Un animale simpaticissimo che io amo. No, che tu odi, l'unica creatura umana sì, che ha paura dei gatti. Guarda, non sono indecisa se tra i gatti, i piccioni, chi, quale gruppo di animali voglia conquistare il mondo. Una non bella riso. Scelta interessante. Sì, mi guardano male. Ma non senti, è vero, oh, non è possibile. Ti giuro, cammino, giro, mi guardo male. E c'è un piccione sì. Che ti guarda male. Sai che qualcuno li mangia i piccioni? Vabbè, allora dobbiamo parlare di Zoomafia. Mamma mia, dobbiamo spiegare che cos'è la Zoomafia. Perché è una parola nuova in realtà, coniata 15 anni fa, proprio come... Cioè, è una parola che ha comunque quasi un'età importante, diciamo. Come libera, come libera. Lo sapevo. Vabbè, vabbè. Mannaggia a te. In realtà vuole legarsi agli atteggiamenti mafiosi che ci sono nel... Sì, diciamo che è un campo in cui c'è... lo sapevo, che c'è... sapevi tutto. Te ne so. No, vabbè, ora tornando un pochino più seri, la Zoomafia è uno studio di quegli atteggiamenti, non solo tanto di atteggiamenti, ma proprio di attività, ma proprio attività che riguardano lo sfruttamento degli animali. Esattamente. E ce ne sono una serie di cui poi parleremo, come per esempio le corse clandestine dei cavalli, i combattimenti dei cani, tra cani, anche la macellazione clandestina. Quindi è un ambito che è poco conosciuto, se ne parla poco, ma che in realtà investe non solo una pluralità di animali, ma anche una pluralità di mafie, cioè, perché è un campo in cui c'è una pseudo collaborazione e integrazione di mafie internazionali. Però io direi che se ne parla dopo. Mettiamo una bella bravissima canzone. Okay. Tecnico, buttaci sta canzone carichissima. Vai. Qual è? Qual è? La canzone è Big Mouth Strikes, sentila come lo suona in inglese, degli Smiths. Perfetto inglese, andiamo. Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your head. Oh, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. rieccoci dopo questa fantastica Ale. Canzone, Ale, sempre la Bisalazza, e entriamo nel vivo del discorso della zoomafia. Allora, abbiamo detto che la zoomafia invade, okay, una serie di ambiti in cui gli animali sono ad oggetto tramite delle attività mafiose, e abbiamo deciso, proprio perché è un campo molto vasto. Molto vasto, anzi, se avete piacere, su internet trovate tutte le informazioni con anche tutte le varie indagini. I dati nel dettaglio. Ci sono questi rapporti annuali in cui appunto si vanno nel dettaglio. Basta cliccare l'AV, è molto semplice da scrivere su internet, LAV. No, infatti magari facciamo una precisazione su come nasce la zoomafia e da chi nasce, cos'è la LAV. La LAV è la Lega Antivivisezione, che esiste in Italia da un bel po' di anni, che appunto si occupa principalmente di questo, e ha permesso la nascita dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia, che è fondamentale perché naturalmente lavora sul campo, collabora con polizia, magistratura, e pubblica ogni anno il rapporto Zoomafia. Dove appunto, e che è quello che trovate sul sito che vi dicevamo prima, che vi consiglio perché veramente c'è tanto da leggere, tanto da imparare, sì. Che chiaramente una trasmissione radio non ci permette, no, di esatto, non riusciremo a dire tutto. Abbiamo deciso di parlare di solo alcuni argomenti, sì, esatto, solo alcuni argomenti, che diciamo alcuni animali che sono principalmente quelli che rendono maggiormente, cioè, più guadagni, che sono i cavalli, le corse clandestine, i cani, e poi dopo parleremo anche della macellazione. Sì, che mi dispiace, c'è l'ora di pranzo. Sì, però non è forse troppo adatto, però è importante. Siate coraggiosi. Allora, la corsa clandestina ai cavalli è uno dei maggiori introiti dell'attività appunto mafiose, soprattutto andranghetiste, e soprattutto in Sicilia. Questo avviene perché, come funziona? Sono corse clandestine, quindi comunque implicano degli spazi in cui i cavalli possano correre. E ovviamente spesso non hanno, cioè basta asfalto, strade asfaltate. Esatto, quindi tant'è che molti cavalli muoiono, e la cosa che a me ha lasciato veramente schifata è il fatto che questi cavalli poi restano in strada, cioè cavalli sotto il sole in Sicilia con un caldo fottuto, cioè è orribile, 20 ore, giorni, eccetera. Che poi magari, capito, gli danno al paninaro di turno che ci fa il panino con la carne di cavallo. Non ce lo dire a ora di pranzo adesso questo video. Ma quello che mangio io no, non, io spero per te di no, però cioè, succede, no. No, scherzo a parte, è una cosa allucinante, tant'è che leggevo appunto nel sito che si diceva prima che ci sono stati un sacco di casi del genere, di cavalli trovati per strada, e avevano, ora pensa te, fatto in modo che i cavalli non sfidassero la corsa nello stesso tempo, cioè la facevano in differita, correva un cavallo, sì, veniva cronometrato, sì, tenuto conto del punteggio, del tempo fatto, un altro cavallo, in modo che non anche se arrivasse la polizia, esatto, a dire questa è una corsa clandestina, non è vero, c'è un cavallo solo che corre, e poi va tenuto conto che chiaramente quando si tratta di prestazioni sportive, diciamo così, molto, chiaramente sono cavalli sottoposti a terapie, a trattamenti farmacologici, sono dopati, tant'è tantissimo, che leggevo nel rapporto di cui parlavamo prima che nel 2011, esatto, 189 cavalli erano appunto dopati. Cioè, sì, è vero, è assurdo, anche perché la mafia ha questo strano rapporto con gli animali, nel senso che l'animale rappresenta anche un certo prestigio, no? Quindi il cavallo è quel bene di lusso, no? Sì, che da esibire. Da esibire, leggevo di ora, non mi ricordo bene il nome, però questo funerale, questa, esatto, donna. Funerale. Esatto, in cui sei cavalli neri, cioè quello è anche Pompa un modo, magna, no? Sì. Di far vedere. E poi in realtà sono anche utilizzati, cioè a me è venuto naturalmente in mente Il Padrino, quella testa di cavallo mozzata che si ha nelle, cioè al di là delle corse spesso i cavalli anche altri animali sono sfruttati come segno intimidatorio e di minaccia nei confronti delle persone, cioè voglio dire, sì, ma c'è uno strano rapporto tra mafia e animali, o vengono, cioè è lo strumento di guadagno o è lo strumento di protezione. Per esempio leggevo che usa molto tenere i cobre, serpenti, questi animali, a guardare per esempio la droga. Avevano trovato questo in camera di questo ragazzo, che era, mi sfugge il nome, a guardare non so quante quantità di cocaina questo mega serpente, tra l'altro che sono tutti animali in gran parte illegali, ma anche cani ovviamente diventati ferocissimi perché allevati orrendamente, che difendono magari il luogo dove si nasconde un latitante, però sono segnali. No, ma cioè, la cosa peculiare dei cani principalmente, che a parte che è il maggiore, cioè principalmente è l'animale che in gran parte delle famiglie hanno come animale, sì. Dopo, insomma, tra i gatti, cani, cioè, sì, sono è più facile comuni. Avere un cane che un cavallo, insomma. Adesso anche Monti, Berlusconi e Versani. Grazie tecnico per avercelo ricordato. Il tecnico ha sempre questo tono così polemico, politico. Vabbè, sì, comunque sì, quello che volevo dire è che il cane, tecnocrazia, proprio per l'importanza che ha nelle famiglie italiane, è uno sfruttamento su un sacco di punti di vista. Perché? Allora, il cane, innanzitutto, il traffico dei cuccioli dall'est ha raggiunto dei livelli impressionanti. E spesso sono tutti cuccioli che vengono venduti online, qui viene mistificata la provenienza, sono truffe, frodi, tutto di più. I capi d'accusa legati a queste attività sono infiniti, che non starò qui a menzionare. Quindi sempre cani, no? Il cane è quello che ti fa il guadagno, però è anche il cane quello che rapisci, perché magari chiaramente sono sempre cani di grosse taglie, quindi pitbull, cani corsi, insomma cani che li vedi e dici... Porca, Maremma Maiala, mi fa paura, no? Maremma Maiala. Scusate, non faccio apposta, sono nata così. E però, per dirti questo, sono cani che spesso vengono rapiti, quindi magari tolti a una situazione amorevole, di affetto, eccetera, maltrattati, in condizioni leggevo, no, scusate, ripeto, per l'ora di pranzo, però tenuto questo cane in un cantiere, quindi una situazione desolata, con questo cucciolo impiccato davanti. No, non me lo dire. Per istigare. Poi sono cani che hanno dentro magari anche, insomma, una serie di malattie per tutti i maltrattamenti, certo, e violenze psicologiche, perché cioè, non è che un animale è un oggetto, comunque è un sentimento. È questo che a me veramente fa raccapriccio, perché queste persone credono di avere il diritto di esercitare violenza sotto qualunque forma solo perché queste non sono persone ma sono animali. Invece, secondo me, che poi tenendo conto lo fanno anche con le persone, esatto, però la cosa che fa più questo. Schifo. Ah, poi cioè, che ragionamento è? Proprio non sta in piedi, non lo capisco e mi sembra ancora più squallido, cioè ti rende ancora più bestia tu che pensi in questa maniera. Perché capite, uno, cioè, già il mafioso di per sé si sente più forte di qualunque altro, figuriamoci un animale che non è un essere umano, quindi magari non è considerabile a pari, però comunque è diverso da te, sì. E non ha la capacità di parola, di no, è veramente, veramente uno schifo, sì. E niente, io e quindi comunque combattimento, ho letto almeno una cosa positiva, e che rispetto a 10 anni fa, anche se è sempre un fenomeno da non sottovalutare, sono tendenzialmente diminuiti. E la cosa che io ripeto, a me stupisce tanto, è che di solito la mafia, le varie mafie tra di loro si dividono un po' i settori, no? Mentre per quanto riguarda la zoomafia c'è sempre molta, cioè una collaborazione, no? Cioè, ma tutto senso, d'accordo. Sì, c'è proprio dall'est, capito, arrivano in Italia, tanto molti fermati, molte macchine con tipo 37 cuccioli dentro, tra l'altro cuccioli fa conto che non hanno 60 giorni, quindi in realtà quando ti compri un cane, sì, non te lo danno a dei mesi in cui magari può separarsi dalla mamma, esatto, cioè un periodo, quindi di tempo che non bevono, non mangiano, delle condizioni pessime, quindi e anche dell'abbandono leggevo, che crea un sacco di possibilità, perché più vengono abbandonati i cani, più hanno bisogno di canili, e quindi si crea questo, un po' come si diceva, si è sempre detto, dell'edilizia, di fare gli appalti truccati per costruire i canili. Cioè pensa te, dall'abbandono del cane d'estate perché vuoi fare il figo in spiaggia, e lo sappiamo che è un problema enorme da quindi noi. Pensiamoci tutti bene, noi sappiamo che i nostri ascoltatori sono gente di cuore, però sensibili, buttiamoci anche una canzone, via. Ma se va. Bentornati, e siamo ancora qui, mi dispiace per ancora, voi. Ancora, basta! Succede abbiamo, anche a migliori. Abbiamo quasi finito. Sì, infatti abbiamo anche pochissimo tempo. L'ultimo argomento che trattiamo oggi riguarda... la macellazione clandestina. Sì. Perché ogni anno scompaiono nel nulla migliaia di animali, ovini, galline, bovini, di eccetera. Di tutto di più. Di tutto di più. E finiscono appunto in questo giro della macellazione clandestina. Clandestina significa che non è a norma di legge, evidentemente. Quindi innanzitutto non sono rispettate le norme igieniche nei luoghi, nei luoghi adatti dove macellare le carni, e perciò significa che questo viene fatto con la complicità, purtroppo va detto, di alcuni veterinari che puliscono i documenti di questi animali che non potrebbero essere messi poi sul commercio, no. Che però vengono messi sul commercio, esatto, e questo è un dato veramente preoccupante a livello sanitario, è davvero allarmante. Non bisogna pensare che non ci riguardi, perché anzi dai dati sembra che l'Emilia Romagna sia una delle regioni più coinvolte, forse la più coinvolta mi pare, tra quelli della macellazione clandestina. Per quanto riguarda le associazioni mafiose, innanzitutto è la Camorra che ha più delle altre il controllo di questo aspetto, e qui di nuovo torna il motivo per cui parliamo di zoomafia, cioè ci fa capire quanto comunque le associazioni mafiose come la Camorra riescano a infiltrarsi in ogni settore ed avere agganci e a pulire e tutti ovunque, i documenti di cui hanno, esatto, bisogno per. E di quante soprattutto relazioni di lavoro hanno, perché comunque corrompere i veterinari, vuoi dire, la rete proprio si in qualunque campo riescono. Siamo in chiusura, volevamo concludere leggendo la lettera di Ciro Troiano, che è responsabile appunto dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia. Ci sono giorni che restano nella storia di tutti, momenti incancellabili che ci segnano per sempre, emozioni che non trovano fine. Il 23 maggio e il 19 luglio di 20 anni fa sono giorni che ci appartengono profondamente, come dolore indelebile, e a questo dolore sono associate immagini e volti che fanno parte della nostra coscienza: il cratere di Capaci, le auto in fiamme in via D'Amelio, il sorriso di Falcone Borsellino, il volto straziato di Rosaria Schifani mentre grida «Vi perdono, però dovete mettervi in ginocchio», la rabbia sulla faccia della gente. Immagini che hanno scosso la nostra povertà di mondo, sconquassato il nostro essere storditi, comodamente assorbiti dalla banale quanto desertica quotidianità. Il nostro non è solo un ricordo spontaneo e vivo di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo, di Paolo Borsellino e degli 8 agenti della scorta: Agostino Catalano, Walter Eddi Cosina, Rocco Di Cillo, Vincenzo Limuli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Claudio Traina. Ma è un'adesione incondizionata ai valori che hanno difeso e che ora simboleggiano. Crediamo che nel nostro paese la strada per l'affermazione della giustizia e dei diritti sia ancora lunga, e siamo convinti che i diritti, al pari della giustizia, non abbiano confini di specie. Un mondo etico non può essere limitato agli interessi umani. Vogliamo che nel nostro paese trionfi una cultura non violenta, rispettosa degli animali umani e non, dell'ambiente, del territorio, e che riconosca la dignità e la libertà della sofferenza di ogni essere vivente. Tutti i business malavitosi hanno un forte impatto ambientale, manifestando un evidente spregio per la natura, gli uomini, gli animali e il loro ambiente, tanto che la lotta antimafia ormai non può più prescindere da quella per la difesa dell'ambiente e degli animali. Quotidianamente, attraverso l'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV, combattiamo le mafie e le organizzazioni criminali che sfruttano gli animali nelle corse clandestine, nei combattimenti tra cani, nei traffici di fauna selvatica, nei canidi lager, nelle macellazioni clandestine. Ecco, questo lo facciamo anche in nome di Falcone, di Borsellino e di tutti gli altri martiri. La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio, asseriva Pablo Neruda. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle. Noi abbiamo entrambi. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Buon appetito. E scusate se magari questi argomenti non abbiano aiutato appunto l'appetito. E niente, ci vediamo ogni venerdì a luna, mi raccomando. E puntuali. Grazie a tutti, è stato un piacere, vi vogliamo un sacco bene. Un sacco. Ciao. Partiamo la canzone, grazie al tecnico che come sempre insomma ci fa compagnia e è qui con noi. E a presto. I fall off my chair, and I'm wondering how I get down the stairs.